boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Hai detto bentornati invece di bentornati. Lo so, ormai è andata, vai avanti. Lo so, no? Era solo per dirtelo. Basta con queste regole, dai. Okay. Ma guarda che ormai siamo tutti abituati a chattare, chattando Drago si fanno un sacco di refusi, quindi ci si abitua, no? Oddio, ci si abitua, a volte è francamente difficile capirsi in chat, no, sia per te, i refusi, ma, sia ma perché sei non tu che non la frase, riesci a capire, perché io. Sei vecchio. Ma vacchio. Che vecchio, sì. Dai, ma anche mia madre adesso è su Skype e chatta, quindi diciamo che l'età media si allunga e io sono un giovanotto. Vabbè, ormai, ma perché? Crete cose sei vecchio. Per? Crete cose. Ecco, crete cose, certe cose. Ma vabbè, cosa dici? Crete, ma... succede, ma certe sì. Crete. Come dire Caio, ciò al posto di ciao. Vabbè, ormai sì. Sono diventati saluti abituali. Guarda che c'è gente che scrive ciò apposta. Questo, cioè, scrive sì, ciò per ridere, eh? Senso di humor ridere. Dei nerd che fanno le chat. No. Cioa, cioa e tutti giù a ridere. Che ridere, vabbè. Cioa. Vabbè, più o meno, tutti. Più o meno, Cos'è U? E quando sbagli per andare a capo, invece del tasto invio, schiacci quello della U accentata. Ah, è vero, anche quello l'ho già visto. Succede spesso, U. Sì, va bene. Sentito, U? Sì, ho sentito, U. Ma è interessante sta cosa della U. U. Cioè, quindi tu dici che adesso, parlando per imitazione delle chat, la gente metterà la U accentata al fondo delle frasi. Perché no, U? Vabbè, ma adesso l'hai detta, però puoi anche smetterla, eh. Ma di far cosa? U. U. A volte il grado di regressione della società ci viene confermato da più parti, dal mondo della politica, e quello lo sappiamo, da quello dello spettacolo, figurati, gli esempi sono innumerevoli, e perfino dal mondo della cultura. Sì. Come potremmo altrimenti definire due libri di Dean Hanson chiamati The Big Penis Book 3D e The Big Book of Breast 3D? Beh. Entrambi hanno il suffisso 3D perché possono anche essere letti con gli occhialini 3D, appunto, e contengono i famosi pop-up, cioè le pagine che si gonfiano e si montano come quelle dei libri per bambini. Sì, no? Però sono bellissimi, Drago. Guarda che roba! Un libro di foto sul tema del pene gigantesco e uno sul tema delle tette in 3D. E con i pop-up, ma sì, è un paradiso per i pornomani rimasti bambini, e cioè tutti quanti. E innanzitutto notiamo anche la finezza. No? Il libro sui peni si intitola The Big Penis Book, cioè il libro del pene grande, mentre quello delle tette si chiama The Big Book of Breast, e cioè il grande libro delle tette, non è il libro delle grandi tette, cioè c'è una qualche differenza. Qual è secondo te? Perché quello sui peni contiene le fotografie di famosi superdotati, principalmente degli anni 70, tra i quali non poteva mancare buon'anima di John Holmes. Ma infatti qua dice che nelle note c'è scritto che solo il 2% della popolazione maschile mondiale ha un pene che supera i 20 centimetri. Quindi tutti tranquilli, insomma. Quindi nel libro. Guarda qua, ma guarda qua cosa c'è! Ma in 3D, Drago, col pop-up! Ma incredibile! Sì, un pop-up di 26 centimetri, in effetti, non è da tutti i giorni. No. È ideale da leggere in metro. Io penso che viviamo una regressione. Una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. C'è un bambino nel mondo del calcio che sta combinando più guai di tutti gli altri bambini del mondo del calcio messi insieme. Questa la so anch'io, Drago, che di calcio sono ignorante. Sentiamo. Stiamo parlando del bambino Cassano, che adesso gioca nel Milan. Complimenti per il fatto che sai che esiste il bambino Cassano. Ci ho preso. Ci ho preso, stavolta ci ho preso. Posso parlare di calcio al bar. No, però mi spiace, Kappa, stavolta non sei proprio aggiornatissimo, perché Cassano è Cassano, d'accordo. Lui forse sta al secondo posto in questa classifica delle maglie nere dei bambini del calcio. L'unico inimitabile bambino difficile del calcio rimane sempre Adrian Mutu. Chi? Adrian Mutu della Fiorentina, o meglio ex della Fiorentina, l'hanno messo fuori squadra all'inizio dell'anno. Ma andiamo con ordine. Mutu ha 31 anni, è come se ne avesse 16, perché nella sua carriera ha fatto letteralmente di tutto. Nell'ordine, è stato trovato positivo alla cocaina nel 2004 mentre giocava nel Chelsea. Il Chelsea l'ha quindi licenziato e lui si è beccato uno squalifica di 7 mesi. Quando era già alla Juve gli viene notificata una multa dalla FIFA di 17 milioni di euro per inadempienze contrattuali verso appunto la sua ex squadra, il Chelsea. Passa alla Fiorentina e nel gennaio 2010 viene trovato positivo ad alcuni metaboliti della sibutramina, uno stimolante che annulla gli effetti della fame. Altra squalifica di 9 mesi. Poco prima di rientrare in squadra picchia un cameriere in un locale notturno di Firenze, gli spacca il setto nasale, le foto finiscono sui giornali. Finalmente ricomincia a giocare, ma dopo la pausa di Natale abbandona l'allenamento senza motivo e sparisce. La Fiorentina lo mette fuori rosa e la leggenda continua. Sono venuto qua con grande voglia di ricominciare, con grande voglia di lavorare e con grande voglia di rimanere, quindi sono venuto per quello, c'è tanto entusiasmo. In Cina ogni anno spariscono 200.000 bambini. Ma quanto parli oggi, ce ne sono Drago, tanti bambini . E vabbè, bisogna parlarne perché insomma sì. È una notizia. 200.000 bambini spariti ogni anno, il governo è corso ai ripari e quindi ha cominciato a distribuire gratuitamente telefonini col GPS alle famiglie che ne fanno richiesta. Beh, per una volta la Repubblica Popolare Cinese non fa la figura da pirla della settimana. Esatto. È una grande idea. Pensa se il governo italiano facesse la stessa cosa. Sarebbe una cosa intelligente. Almeno i bambini che si perdono, almeno quelli che vengono rapiti, vabbè, ma quelli che si perdono li trovano di sicuro. Sicuro, no? Ma che? Ma guarda, in Italia il bambino si perde, ma il cellulare ce l'ha il padre. È così, la polizia cerca il bambino e trova il padre che gioca al videopoker. Io lo so già come finirebbe, tipo quelli che si fanno rifare la casa in TV. Chi? Sì, Drago, quelli di Extreme Makeover Home Edition. Ma cos'è? Drago, è una trasmissione televisiva cult americana. Sì. E il principio della trasmissione è che ricostruiscono la casa di poveracci che sono andati in malora. Vabbè, allora, gliela quello... riempiono di optional tecnologici, gliela arredano, gli fanno il giardinetto e bello quindi, no? Ma com'è bello? Sti poveracci qui non c'hanno i soldi per mangiare, gli danno la casa col televisore al plasma, cosa fanno? Si rivendono il televisore al plasma per mangiare. Si parlava di bambini in Cina smarriti. Ma cosa vuol dire? 200.000 in un anno. Tito, non è che devi far così, Tito, perché non ti do più da mangiare per una settimana. Altro che allora, si parlava di cellulari, GPS, siamo finiti a parlare di poveracci americani. Ma tutto il mondo è paese, Drago. In particolare i poveracci si assomigliano dappertutto. Vabbè, sarà vero. Visto che adesso il mondo è pieno di poveracci, siamo tutti uguali. Evviva! Ma no, ma di nuovo! Cosa? Di nuovo la U! Vabbè, ma succede, no? Sì, succede, ma cos'è il linguaggio delle scimmie, cos'è? No, U! È accentato, tu fai U, invece U, perché è quella con l'accento. Sì, però questo è il linguaggio. Il prossimo step verso la comunicazione sarà proprio il linguaggio delle scimmie. Vabbè, cosa credi, Drago? Il prossimo. Ma era quello precedente. Ormai la regressione è tale che stiamo andando a una devoluzione, capisci? Altro che regressione. Pian piano arriviamo alle scimmie. Tarzan e Cheetah, in pratica, quel codice di linguaggio lì. Sì, no, tu più Cheetah, semmai Tarzan lo faccio io. Comunque lasciami finire di parlare di Extreme Makeover Home Edition. Perché anche quello è indicativo di come siamo messi, hai capito? Allora, ti dicevo, il format prevede di rifare casa a un target di pubblico vicino alla miseria. Sì, gente che non riesce nemmeno a mangiare, che non riesce non arrivare alla fine della settimana, alla fine della giornata. Allora, questi qui, grazie al programma, si fanno ricostruire la casa gratis. Ma vedo che è una cosa... E quindi cosa succede? Che la loro situazione finanziaria rimane disastrosa. Sì. L'unica differenza è che hanno la casa risistemata, con il plasma, capito? Ma poi, risistemata, cosa succede? Tutti i lavori sono fatti in fretta, perché devono fare in una settimana questa casa. Una cosa televisiva deve buttano anche... giù la casa vecchia e la rifanno in una settimana. Una specie di miracolo in pratica. Quindi l'importante è che la casa sembri tutta nuova. Poi se è tutto attaccato con lo sputo, pazienza. E poi tra l'altro sono anche infingardi, perché fanno le intervistine ai membri della famiglia, chiedere tu cosa fai, il ragazzino, tu cosa ti piace. E i ragazzini buttano lì quello che in quel momento della loro vita li appassiona. A uno dei ragazzini magari gli piace lo snowboard, certo non farlo perché non c'hai i soldi per prendere il pullman, andare in montagna e così. Gli dice mi piace lo snowboard. E allora quelli della trasmissione cosa fanno? Gli fanno la cameretta in stile baita con le tappezzerie, con le montagne, e gli regalano 10 tavole da snowboard customizzate, carissime. E lui cosa se ne fa? Andrà a fare snowboard. Ma se non c'ha soldi, le butta nella stufa, almeno si scaldano e passano l'inverno. È proprio come una fiaba di Dickens, insomma. Ma senza lieto fine. Siamo banane! E mandate le vostre banane storte a chiedoasilo@radio24.it, K poi della drizza. No, ma anche Esalta Milano! Come Esalta Milano? Lo dice la Moratti. Ma cosa stai dicendo? Ce l'ha mandato per mail. Cos'è? Un'alternativa a nanana della Moratti è Esalta Milano. Bravo!